Vedo che non hai perso neanche l'abitudine di tagliarmi a metà frase. È quello che ho fatto anch'io, mi sono messo lo spray tu c'hai l'antizanzara. Io c'avevo solo quello puzzone per le mani, me lo sono messo anche nelle braccia. Lo mettiamo anche un po' sul microfono, esatto. Non si sa mai che magari pungono anche gli spettatori. Non credo. No. Fatto sta che comunque la notizia numero uno è che il 26 agosto è uscito il primo disco degli LAX's. E qua ci tiro già una bella riga sopra perché la prima notizia l'abbiamo data. Però possiamo sentire qualcosa. Il disco si chiama Get Some e ci andiamo a sentire Get Some. Naturalmente le LAX's ne avevamo parlato anche 2 o 3 settimane fa, prima dello stacco agostiano, e dove c'è naturalmente Jenny Owen Young. È ovvio. Perché altrimenti come si poteva aprire chi se le ascolta le LAX's. Certo. ecco Get Some, e comunque il disco è bellissimo. Get adesso some. Ne ascolteremo forse 2 o 3 pezzi. Song. Volevo fare tutta la puntata su di loro, ma poi ci sono altre 30.000 notizie in scaletta. No, infatti non ce la faremo. Era andato un po' troppo in alto come volume, comunque va bene. Ah, però io non me ne sono accorta da questa parte qui, perché ero tutta concentrata sulle zanzare e a sottolineare i brani del nostro nuovo quiz. Adesso non mi entrano più gli occhiali, sono in difficoltà. Comunque era, gliel'ho scritto, Alison Run, perché nel frattempo ho l'amico Enrico che mi scrive. che tu non lo conosci però. Ah, è un nuovo ascoltatore. Benvenuto Enrico. Esatto, è ciao. L'ascoltatore numero uno di oggi. L'ascoltatore numero uno ed è il numero due perché ci sarà sicuramente anche il nostro carissimo Oscar Moroni. Non potrebbe non esserci. Fatto sta che oggi abbiamo un sacco di menzioni. Ah no, prima di tutto è arrivato un vocale da... Aspetta. È questo Vocalize che mi ritrovo qui in scaletta? No, Vocalize è un'altra cosa, però prima dobbiamo ascoltare questo, senti. Buongiorno. Vedi che il destino è fatto così, è tutto scritto, non ti sgomentare, non soffrire perché è tutto scritto, lo sai. Buongiorno da Marco Roma. Pensavamo di essercene liberati, invece no. Riapertura dell'anno, continua. Ecco qua il nostro caro Marco Roma, è l'unica trasmissione di Radio Città Fucico che dà spazio ai suoi vocali. Ai suoi vocali, esatto. Che comunque devo dire che per la ripartenza dopo le vacanze ci stanno. Ci sta, vero, mi ricordo infatti. Anche quello dell'anno scorso che non era male, c'era qualcosa sugli ombrelli e gli ombrelloni che... Tutto sommato. No, invece oggi dovevamo parlare di questo Vocalize, che è una residenza d'artista che ha fatto Daniela Cattivelli a Alchemilla, che conosciamo perché è venuta la cara Camilla con Fulvio Chimento, è venuta ospite. E se non fosse che l'evento, che sarebbe dunque l'evento, sarebbe stato mercoledì alle 19 e alle 20, praticamente è una sorta di installazione. Installazione sonora, anzi un live immersivo in quadrifonia, mi scrivono alle 19 alle 20 di mercoledì, soltanto che è sold out perché è solo per 30 persone alla e volta. Sono già state tutte prenotate e tutte 60 sono già prenotate, quindi è un po' sadico da parte tua dirlo, perché solo quelli che già prenotati, esatto, potranno bullarsi. Siccome io ci vado perché mi sono prenotato, ma magari sarebbe carino da parte tua cedere. Lasciare il posto, allora, lasciare a te. Il posto. No, io no. Non ci sono mercoledì, ecco, quindi perfetto, va non bene. Potrei andare, però tu potresti lasciarlo al primo ascoltatore che ne fa domanda, che magari mandandoci manda un messaggio WhatsApp. Al 333-180-94-94 e allora buttatevi perché è l'unica occasione per esatto. Accaparrarsi questo ingresso prestigioso. E dopodiché vabbè, se andate sul sito di Alchemilla, che troverete su www.coxospaziale.blogspot.com, domani troverete comunque il link e magari, che ne so, si sono liberati dei posti, non lo so. Fatto sta che il sito di Alchemilla è alchemilla43.it e niente, comunque mi sembrava giusto raccontarlo. Ma sì, ma poi si possono creare anche quelle classiche file fuori, no? Ma infatti, perché questa Daniela Cattivelli è una sound artist e compositrice di musica elettroacustica. Il suo percorso artistico è orientato alla composizione di progetti sonori e si sviluppa attraverso una molteplicità di forme: sound performance, live electronics, installazioni sonore multimediali, sculture sonori. E Vocalize, appunto, è l'ultimo progetto della sound artist e consiste nella creazione di un live electronics per voce e sistema di diffusione multicanale. Praticamente ha costruito questa cosa nella residenza in situ. È sound specific. Esatto, è una sound specific installation. Sound specific installation, molto interessante. Sai cosa ti dico? Che magari se non verrà, come dire, se il pubblico che non riesce ad entrare potrà forse sentire qualcosa qui da noi e noi faremo domanda per avere qualche estratto successivamente. Sì, magari. Però siccome dice che è in quadrifonia, comunque in MP3 non ma se è una vera funziona. Artista sound specific, comunque quello che posso fare è registrarne un pezzetto e fa sentire un bootleg di questa cosa. In bifonia, in realtà dipende un po' il mio registratore digitale in realtà registrerebbe 4 canali in un colpo in wave. Sì, no, allora noi possiamo registrarlo in quadrifonia, poi dopo a casa se lo ascolta in stereo e amen, insomma. In stereo, in mono, esatto. Come si ascolta in stereo questo, si sta aprendo LibreOffice, questo pezzo che vi faccio sentire che si intitola Rivoluzione Vista Mare. Stiamo andando un po' più sul leggero rispetto a... E siamo già al terzo punto della scaletta. Il terzo? Vediamo come galoppiamo. Vedi, Petrini, esatto. Petrini, il nuovo singolo dell'eclettico cantautore marchigiano Petrini. Mi è arrivato stamattina questo, e siccome sono andato a vedermi il video ed è abbastanza simpatico, il nuovo singolo di Petrini, eclettico cantautore marchigiano, il brano caratterizzato da un sound allegro e da un ritornello incisivo, effettivamente è quasi un tormentone estivo, se non fosse che è uscito il 20 agosto, per cui insomma se voleva un fare tormentone di fine estate, un tormentone estivo un po' fuori tempo, che, esatto, vabbè, poteva comunque farlo uscire un attimo prima, comunque va bene per l'estate prossima. Nasce nel classico bar di paese, il miglior talk show che ci sia, e di maniera leggera e scanzonata offre una disamina della società italiana. Malcelata ironia, Petrini ci racconta come le persone comuni si confrontano con i temi di maggiore attualità, sempre pronti a lamentarsi e ad offrire soluzioni facili, e inneggiando ad una rivoluzione che nella realtà dei fatti nessuno ha voglia di fare davvero. Adesso ce lo andiamo, se riesco a chiudere il comunicato stampa e a rivedere che cosa, andiamocelo a ascoltare. Andiamo. Ah, ecco, questi sono i suoni di YouTube, perché l'ho scaricato da lì. Ah, non si dovrebbe dire. Hai fatto forse un po' di contaminazione. Sì. Alle 5 di mattina ci si sveglia sempre. Il passaporto chiama ma non sogna altrove. I pro sono raggianti, nei contro sono amori. Tu resti in questa Italia ad inventare le soluzioni. Il tuo curriculum è tatuato in fronte, ma non si aprono le porte. Hai 40 anni, ma quale figlio? Nel dubbio non ti fai marito, neanche moglie. E instabile e precario, sei un eroe al fronte, un combattente che ode e ama il suo paese. Poi confidi nell'onore dell'eroe di turno, che dal palco grida la rivoluzione. Rivoluzione vista male, e tutti bravi a comandare, mano aperta e salutare. Mangi il volo, poi ti siedi al bar. C'è Mario allenatore, c'è Bruno l'assessore, c'è Sergio un dittatore, vice premier, poi idraulico. Respingimenti sempre in automatico, uniti contro la Bastiglia. Che cazzo dici? Siamo in Italia, virgolettato, tanto sono tutti ladri. Uniti di coraggio, forza e ribellione, siamo combattenti pronti alla rivoluzione. Ci vediamo domenica mattina, facciamo lunedì che tempo ho messo su. Rivoluzione vista male, e tutti al bar a comandare, mano aperta e salutare, dallo sdraio nazionale, soluzioni al cellulare. E ringraziamo Marche di Fabbrica che ci ha spedito questo pezzo stamattina. Bello, mi è piaciuta questo tormentone di fine estate, fuori tempo massimo. Mi sembra anche sì, centrato il tempo in realtà, col senso della Io canzone. Nel frattempo ho trovato della musica di sottofondo che però è un po' cupa, va bene lo stesso? Ma sì, tanto ormai bisogna prendere quello che passa il convento. Io sono talmente fuori fase in questo mio rientro che non riesco nemmeno più a condividere i post, quindi ho condiviso una foto dove ci sono solo io. Ah, fantastico! Fantastico. Mi sembra giusto. Ti sembra giusto, comunque. No, io sono riuscito a postare su Coxo Spaziale del Facebook, perché abbiamo la pagina Facebook di Coxo Spaziale nel caso qualcuno non se ne fosse accorto. E aspetta, guarda che facciamo anche così. Buongiorno, mi manchi, io vedo te con gli occhi chiusi, vedo te, mi manchi amore mio. Buongiorno da Marco Roma. Devo dire che se non ci fosse intonato. Marco Roma, questa puntata saremmo veramente in alto mare. Non è vero, abbiamo un sacco di cose da raccontare. Per esempio, che sabato c'è il finissage di una mostra che tu forse hai sentito parlare. Si chiama Artistiche, l'emozione femminile nelle arti. Sì, ne ho sentito parlare. Sì, c'è anche un appuntamento. Mi sembra il giorno sabato 4 settembre dalle 10 alle 13 c'è la visita. Visita guidata alla presenza del curatore Sandro Malossini e delle artiste, sa che qualcuno non di tutte le artiste di alcune delle artiste perché tu non ci sarai, credo, mi sembra di aver capito. Così vuoi svelare così e anche... presumo non ci sarà neanche Yumi Karasumaru, che salutiamo, ma so che è a Tokyo in questo momento. E poi chissà chi troveremo tra tutte queste. C'è una lista lunghissima che non sto a leggere, però magari la Pinuccia Bernardoni, che non ho visto all'inaugurazione, potrebbe venire al finissage, chissà, così la saluto. Vero, ci farai anche qualche intervista magari sulle opere? Magari anche no. Ma perché no? Ma perché non ne ho voglia. Perché devo lavorare sempre, insomma. Ma non lo so, perché poi lunedì, se no, cosa mandiamo? Ah, non lo so. Mi continuano a pungere le zanzare. Sì, no, anche a me continuano a volarmi. Forse potremmo chiudere la porta. Ti volano intorno, ma non ti pungono. Aspetta che abbassiamo questa musica. Comunque, hai scritto Artistiche con una grafia che era illeggibile. Io avevo letto finissage Art Smear. Art Smear. Mi sembra giusto. Art Smear invece di Nightmare, Art Smear. Esatto. Mi sembra un titolo anche interessante per una mostra. Lo vorrei suggerire a tutti i curatori della città. Art Smear, il prossimo evento artistico. La mostra che conta di 35 opere, frutto del lavoro che consta, forse consta, ecco, sì, no, infatti stavo guardando questa sorta di è un PDF frutto del lavoro di altrettante artiste che con grande professionalità fanno della loro ricerca una scelta. Aspetta che nel frattempo magari se me lo dicevi prima potevo portare qualcosa di più strutturato se no poi Sandro Malossini mi tira anche effettivamente. Uno, perché non ci sono a parlare sabato, esatto. Due, perché non ero qua pronta col comunicato stampa, apportando sensibilità che sono spesso alla base di grandi trasformazioni culturali o sociali. No, in realtà la frase è che è quel conta di 35 opere che mi ha lasciato un po' così, e comunque la frase finale è un'ultima occasione per ammirare le opere di un gruppo unico, ed effettivamente è una mostra che è da vedere, malgrado ci sia anche tu. Malgrado ci sia anch'io, esatto. Potete guardarle e poi dopo girarvi subito dall'altra parte quando passate davanti alla mia opera, sempre che la riconosciate. È anche un'occasione per andare a visitare la sede della regione Emilia-Romagna, così dove magari uno normalmente non bazzica. Perché uno non ci bazzica? Ma non lo so, cosa ci vai a fare se non hai degli uffici in regione, se non lavori lì? Non so se c'è un URP. Un URP? L'idea, non so. Comunque sì, si può andare a parlare con un qualche assessore regionale o... Mi sembra un'ottima idea. Ci abbiamo creduto. Commerci. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Ciao John Foster e tutti i miei amici di Mail Art nel mondo. Questa è una chiamata digitale di Lars Schumacher della città d'Ada di Hannover, nella Germania settentrionale. Forse hai visto delle mie foto che ho fatto sulla strada per te o altri amici. Forse sono stati sorpresi da un collage o una cartolina di legno della Germania. L'arte postale è così varia ed eccitante. Adoro questa poesia visiva. Questo annuncio non ha bisogno di un timbro. Sì, e questi saluti vanno con amore a tutti gli amici, amanti, artisti di Mail Articolo. La Mail Art è una comunità davvero sorprendente e aperta, un sogno governa il mondo, un sogno che tutti noi sogniamo insieme diventa realtà. Alla prossima. Il tuo. Lars. Schumacher. Hai detto niente? No, hai detto niente, ma poi finalmente hai messo qualcosa che permette un po' di svelare che cos'è questa cosa che ogni tanto compare un po'. Esatto. Quindi l'ascoltatore attento terrà nota. L'ascoltatore attentissimo può prendere questo appunto. Il disco da cui questi brani sono tratti si chiama The Network. Perfetto. Però non dico altro. Niente. Mentre invece abbiamo il nostro ascoltatore numero uno, che è Enrico. Non diciamo il cognome, che in realtà era qui per ascoltare un pezzo che però mi è arrivato e non si sa bene da chi. Però c'è. Ho solo il titolo, c'è scritto promo. Cioè così alla cieca, non sai cosa c'è dentro. No, lo so perché l'ho ascoltato. Devo dire che è anche piuttosto coxico. Cioè, quando l'ho ascoltato, ho detto: questo è perfetto per coxo spaziale. E dunque, tra l'altro, domani è l'anniversario del mio matrimonio. Questa è la musica che ho messo su al matrimonio. Pensa un po': questa di sottofondo. Quella che stiamo per andare ad ascoltare è molto coxica. E al mio matrimonio non c'era, purtroppo. Poi magari ci poteva stare bene nella festa finale. Fatto sta che il pezzo si intitola Un disco in pretura e ce lo andiamo ad ascoltare. E vai. Con giurmento assumete davanti a Dio, io vuoi giurare la verità nell'altra verità, se credente ti te lo giuro. Ma io non giuro niente, signor Presidente. Non vuole giurare lei? No. Allora, viene proposto, non c'entra proprio niente questo. Viene proposto al test di rendere il giuramento come la formula che viene annunciata. E il bar risponde, non intendo giurare. Devo chiederle perché? No, è perché io non so niente, signor Presidente. Cioè? Non so niente e non intendo sapere niente. Ho capito. Siccome a noi risulta che qualcosa lei sa. Ma io non ho detto niente. Perciò io le proponevo il giuramento in modo che lei potesse... No, io non so niente e non intendo sapere niente. E non ho detto niente. Se c'è qualcosa, no, io non deve darmi un'ulteriore risposta. Vuole rendere l'interrogatorio, sì o no? Non so niente, signor Presidente. Ho capito. Ma se lei non sa che cosa le chiedo, come può dire che non Ma io non voglio sapere niente. Ecco, allora non vuole rendere l'interrogatorio, si rifiuta. Sì. Chiedo scusa. Allora ci capiamo subito. Lei lo sa io come l'ho fatto la galera. Io ero solo un killer. Cosa ha fatto là? Per le galere. Io ero solo un killer, poi non sapevo più. Sì, ma lei non le abbiamo chiesto. Io le ho chiesto se lei voleva rendere l'interrogatorio sui fatti. Ma io non voglio. Sul quale ha già deposto. Ma non voglio rendere niente perché non. E questo l'abbiamo già detto niente. Abbiamo e non mi deve chiedere niente. Parla, quello che le devo chiedere lo so io. Lei ha fatto la sua parte. Adesso non voglio rendere interrogatorio. Mi pare che è chiarissimo. Questo è tutto, signor Presidente. E allora lei dice, respinge tutti gli addetti, ha detto. Esattamente, io vorrei precisare una cosa. Tutto quelli che mi accusano, è vero? Sì, io mi trovo qui per le accuse, diciamo precisamente. Ma mica è detenuto per la nostra causa, no? No. Sì, sono detenuto per atto, anzi, per questa causa sono detenuto ancora, volevo chiedere la scarcerazione, se era possibile, per il decorrenza dei termini. Poi, io in questo processo mi trovo per le accuse fatte da Casirati. Cioè, Casirati, quando mi accusò di due, io chiamo pensate rapine, non tentate rapine. Poi le spiego anche il perché. Quale? Quella là della? Esattamente. Come ha detto? Io le chiamo pensate rapine, non tentate rapine, poi le spiego anche il motivo. Ma come chiama Fabio Sofia? No, è una cosa più che vera. Se vuole sentire quali sono le circostanze, i fatti che lei ha visto. Certo. Sono 7 mesi che sto qua su e giù per incontrarmi con lui. Sempre da Rieti? Da Rieti, da terra. Sempre da Rieti, in campagna, vuoi pure l'indirizzo? No, non lo so. Numero te. Se vuoi posso dal mio. Oh, accidente. Non sappiamo cosa dire. Non sappiamo cosa dire, valeva per prima di questo pezzo, esatto. E invece per dopo non vale più, perché questo pezzo che hai messo su è stupendo. È la, vero? La finisce un po' in maniera improvvisa. No, ma è meraviglioso. Ma è un pezzo bellissimo, ma dà una pista a Jenny Owen Youngs, che è non, cioè, altro che lei Access. Questa è vera musica. Tra l'altro, tu lo sapevi che Casirati era uno, perché viene citato Casirati all'interno di questo testo, lo sai chi è Casirati? No, non so chi sia Casirati. Ah, era uno dei testi su cui si appoggiava il famoso teorema Calogero del processo del 7 aprile. Ovvero? Racconta. Vabbè, processo 7 aprile, il famoso processo che intendeva, come dire, indicare potere operaio, toni negri, eccetera, eccetera, come... come mandanti? Come, sì, come, diciamo, come forza eversiva, in qualche modo, di impostazione terroristica, cosa che si stabilì che non era, naturalmente, ma mi ricordo questo Casirati, mi ricordo che... Ho capito. Era uno dei personaggi che veniva chiamato in ballo. E invece, continuando con tutto quello che c'è da fare questa settimana... Siamo arrivati a domenica, no, in realtà sabato e domenica. Allora, un disco in prettura l'abbiamo fatto. Qua mi risulterebbe Fruit dalla tua scaletta. Esattamente. Quindi, siccome tu ne sei protagonista, tu dirai obsolete shit, sì, certo. Visto per che cui hai fatto immediatamente che qua stiamo facendo praticamente solo dei conflitti di interesse. Hai cominciato tu, io ero tutta bella tranquilla, poi dopo hai cominciato a spoilerare a destra e a sinistra che io sono qui, io sono là, e allora ma parliamo dei workshop di Fruit che succedono sabato 4 settembre, di cui io non ho nulla che spartire. Tecnica mista propone a Little Silk Print Animation, un workshop lampo di animazione tradizionale per la realizzazione di un flipbook. Forse tu dovresti fare un workshop con un logopedista. No, fra l'altro ci sono curati da Radio Città Fujiko i workshop di speakeraggio. Ed effettivamente scriviamoci subito. Non so se qualcuno se ne può essere accorto, ma io non li ho mai seguiti. No, nessuno di noi due li ha mai fatti. Workshop di speakeraggio radiofonico, però vi consiglio. Ma quest'anno faremo formazione caldamente di farli, no, anche perché così potete dire sicuramente parliamo meglio di quelli di Coxo Spaziale. E dove eravamo rimasti? Invece Fruit. Domenica 5 settembre, cadavere squisito a orologeria per fare animazione in modo libero, selvaggio, istintivo e gestuale, ispirato a un noto gioco surrealista. Else Edizioni, casa editrice e laboratorio artigianale di stampa serigrafica, organizza invece il workshop di illustrazione, stampa serigrafica e narrazione Kamishibai, previsto per sabato 4 settembre. Dunque, e inoltre, sempre sabato 4 e domenica 5, questo è il Parco della Montagnola, dopo ne parliamo ulteriormente, si terrà infine il laboratorio di pittura Un Bosco nel Parco, condotto da Marta Finotti, un intervento di rigenerazione urbana con la partecipazione di un gruppo di ragazzi richiedenti asilo che stanno facendo un percorso di inserimento al lavoro nell'ambito del progetto Nausica con l'associazione Serendippo. E se volete, se siete interessati a questi workshop che attorniano la fiera Fruit, la fiera della piccola editoria non edizione, andate su fruitexhibition.com/news. E mentre invece, appunto, domenica dalle 10 alle 23 si tiene la non edizione di Fruit Exhibition, festival e market internazionale dell'editoria d'arte indipendente. Non stiamo a leggere tutti i partecipanti, anche se ci sono alcuni TikToker famosissimi, tipo Bolo Paper, che ha tipo 1 milione di spettatori su TikTok. E poi cosa, chi altro c'è di Officina Type? No, ce ne sono un po' di famosi. Senza... Io lascio dire tutti a te, perché io non so niente e Kaboom non Magazine. Intendo sapere niente. Poi fra l'altro quest'anno viene anche Marmo, libreria di Forlì, che si occupa di arte contemporanea. A Forlì c'è questa piccola libreria che si occupa di arte contemporanea, fantastica. Poi c'è Checkpoint Charlie. Insomma, ci sono un po' di realtà che sono passate per Coxo Spaziale. Comunque o che ci passeranno o che ci sono tutte le settimane. Uno c'è tutte le settimane, praticamente. Dopodiché il 5 settembre ci sono anche degli incontri, però dunque per andare alla alla fiera, alla fiera, visto che all'aperto ed è in montagnola libera e leggiadra, non c'è bisogno di Green Pass, mentre invece per gli incontri c'è bisogno del Green Pass, per cui sappiatelo, chiudete le orecchie se non avete il Green Pass, perché dunque alle 18 di domenica c'è la presentazione di Habitat Pietra, Inhabited Topography, con Via Industria Publishing, con Antonio Cammareri e Via Industria. Luogo Comune. La casa editrice è fondata, esatto, dal nostro Emanuele De Donno, che sarebbe bello avere qua in radio, perché non intercetti? Chissà. Dunque, no, stavo guardando che abbiamo, c'è abitare, no, senza occhiali faccio fatica. Siccome io non ho neanche un comunicato stampa qua davanti, non posso aiutarti, capisci? E poi comunque io non so niente e non intendo sapere, esatto, niente. No, Abitata Pietra è il progetto editoriale di Antonio Cammareri, Stefania D'Amato e Luogo Comune, a cura di Marco Trulli, nell'ambito della residenza Un Atlante del Paesaggio Rupestre, intanto che arrivano tutti qua? Quelli che tornano con la Ryanair dalla Sicilia, tenutesi nell'ambito di Matera 2019. Il libro è frutto di un'intensa ricerca visuale di sperimentazione narrativa realizzata collettivamente dagli artisti, una riflessione sul paesaggio raccontato attraverso le immagini, un insieme di stratificazioni visive e di senso sull'abitare, sul rupestre e sulle comunità. Mentre invece alle 19 abbiamo La serigrafia in Italia, un mondo interno dentro a un libro, presenta Francesco Ciapponi, docente di storia della stampa presso la Laba di Rimini, e con ospiti Daniel Tummolillo, docente di serigrafia e autore del libro VIP Various Italian Printmakers, che sembra molto interessante. No, dopodiché Obsolescit non fa neanche un workshop. No, noi no, niente. Obsolescit sta muto e zitto. Alle 20 abbiamo la premiazione di FIP, Fruit Indie Publishing, che, perché devi sapere che Fruit quasi tutti gli anni fa un concorso per una zine, se non sbaglio. No, per una pubblicazione in generale. Quest'anno il tema era il viaggio. E appunto verrà premiato chi ha vinto questo premio. Questo contest. Dopodiché alle 20:45 Frisco Speaks, il magazine sulla grafica underground, presentato da Francesco Ciapponi e con Linda Cuscito e Giuseppe Di Carlo. Francesco Ciapponi è in diversi di questi workshop che hai citato. Ok. Me lo ricordo già da prima. E poi alle 21:30 Urbaner, un progetto a cura del Comune di Modena sulle culture urbane in Emilia Romagna. Analisi e documentazione tra estetica, antropologia e società. Presenta Elia Mazzotti Gentili e Simone Ferrarini. Hai capito? Ho capito. Modera Cinzia Scari, curatrice indipendente. Bene, comunque tutte queste informazioni, per chi si fosse distratto come me, le ritrova sul blog. Su www.coxospaziale.blogspot.com da domani. E poi naturalmente torniamo ad ascoltare un altro pezzo delle LA Access, perché non possiamo farne a meno. Esatto, quindi, e dunque tu ti tocca di adeguarti. Io vorrei ascoltare di nuovo uno di quelli del processo comunque. Ah, ok. Potremmo, no, non ce la faccio. Che peccato, però la settimana prossima. Pulled a fast move, pulled me to the bathroom and locked the door. up in a booth, getting drunk, thinking of you. Guess who I ran into? Your best friend. It was totally worth it. Maybe I'm a bad person, but you know. Hai capito, fra hai l'altro capito. Jenny Owen Young stasera è live su Twitch alle 11 di sera, per cui se andate su Twitch e cliccate Jenny Owen Young sapete che naturalmente la troverete lì. La troverete e invece lì. Mentre succedeva tutto ciò su Facebook, Stefano Taccone ci fa sapere tramite rivistastudio.com che un gruppo di scienziati ha creato dei mini cervelli a cui sono spontaneamente cresciuti degli occhi. Ma dai, fantastico. Infatti. Come si fa a creare dei mini cervelli? Non lo so, bisogna andare su rivistastudio.com e informarsi. A proposito di mini cervelli, il mio mini cervello si è dimenticato di menzionare il fatto che dal 4 al 23 settembre è di nuovo possibile andare a visitare la mostra di Pessoli, sempre ad Alchemilla, dove ci sarà appunto questo quindi sound installing. Due piccioni con una fava. No, perché no. In realtà il primo settembre, no, mercoledì, in realtà la mostra non è ancora aperta, dal 4. Però City of God di Alessandro Pessoli, che è una mostra assolutamente da non mancare, e appunto riapre dal 4 al 23 settembre, per cui se andate su alchemilla43.it potete registrarvi per andarla a vedere. Mentre invece domenica, oltre a Fruit, abbiamo anche il finissage di Aldo Giannotti con dei Satellite Events. Abbiamo detto in coro. Il coro. Uno dei rarissimi momenti in cui siamo all'unisono. Esatto. Incredibile. Fatto sta che appunto, ahimè, questo io devo dire che siccome sono molto dispiaciuto perché io quando passeggio al cane faccio un giro dentro alla colonna di Aldo Giannotti, presente? Che certo. C'è questo column, sì. dove la gente l'ha riempito di graffiti. Esatto, si è sbizzarrita. Dunque vado lì, passo un po' di tempo a leggere. Scusa, mi corre l'obbligo di chiederti se anche il tuo cane si è preso la briga di lasciare traccia del suo passaggio. No, a parte che la raccoglierei se l'avesse fatto, però anzi, lui tendenzialmente non gli piace entrare dentro questo piccolo. C'è troppa luce. Non lo so, che comunque non gli piace, comunque viene e obbedisce come si addice a un cane. Io devo dire che in questi mesi comunque ho notato all'interno della mostra di Aldo Giannotti, che ho visitato diverse volte, dei piccoli cambiamenti. Per esempio i visitatori sono mm-hmm. diventati più autonomi. Io stasera uso spettatori, ascoltatori, okay. visitatori in maniera totalmente sbagliata e arbitraria, cioè il pubblico per la radio, gli mm-hmm. spettatori. No? Sì, no, ma va bene. Comunque va bene. C'è la sala delle scale. Mm-hmm. Che avevo visto i primi tempi abbastanza con gente titubante che non sapeva esatto, se poteva spostare certo. Poi arrivi okay. e leggi dopo sopra quello posto non posso, allora magari prendi coraggio okay. qualcuno si fa aiutare, magari la sposta invece l'ultima volta facevano la gara con le scale praticamente tipo. Sono tutte c'è un movimento di scale autonomo proprio quindi vedi che no, comunque si funziona crea, no, è struttura sociale questa no, ma infatti io sono convinto che in realtà se noi abituiamo la gente a correre in tutti i musei, corrono in tutti i musei, capito? Poi non magari cioè, quando viene fatta la mostra di Rumens, sì. questo non viene proprio esatto. apprezzato tantissimo, però può succedere. Ah, mannaggia, ma allora io adesso dovrei leggere. Quanti minuti ne abbiamo? Un po' ne abbiamo. No, non ho finito di dire che cosa succedeva domenica con Aldo allora, Giannotti. Finisci ben di dire aspetta questo. Aspetta che inforco un attimo l'occhiale. Inforca l'occhiale. Satellite Events. Ah, ecco, esatto. Dunque, alle 21 abbiamo il concerto di Giovanni Truppi e alle 22 la performance di Pablo Chiaraghin e Miss Greg. Ecco, io, se ci fosse la possibilità, consiglierei caldamente di andare a vedere la performance di Pablo Chiaraghin, che appunto che conclude la mostra, perché alle 23 poi finisce ed è finita lì la mostra Safe and Sound. Se non l'avete ancora vista, è la prima mostra antologica di Aldo Giannotti in un'istituzione italiana a cura di Lorenzo Balbi, con l'assistenza curatoriale di Sabrina Samorì, e questo è appunto al Mambo in via Don Minzoni 14. E però non ho messo lo stacchetto. Lo stacchetto, peccato, perché adesso ci stava lo stacchetto. Ci stava, aspetta. Come... fallo a voce, scusa, non lo sai a memoria? No, ma la voce non funziona tanto. Ah, però si poteva tentare. Si poteva tentare. E invece io non ho uno stacchetto per lanciare questo nuovo quiz che propongo così in modo totalmente random. Uh-huh. Leggerò un estratto di un libro che ha a che vedere con le arti visive, e chi indovina cosa vince? Chi indovina che libro è? E vince il libro. No. Vince, vabbè, vince il libro, ma sì, dai, vince il libro usato, perché non lo ricompro apposta, è mio. Okay. Con le mie noticine, mi sembra quelle giusto. Poche. Ah, vabbè, con le tue noticine vale molto di più. Ma in questo ce ne sono. Posso partecipare anch'io? Non l'ho ancora finito. No, tu non puoi partecipare perché lo leggi, ce l'hai di fronte, quindi per te è un po' appena facile. Ok. Comunque, i pittori non hanno dipinto ciò che sarebbe stato loro dovere dipingere, ma soltanto ciò che sono stati incaricati di dipingere, oppure ciò che poteva promuovere la loro notorietà o procurare loro del denaro. Infatti non hanno mai dipinto altro che un mondo falso e totalmente inventato che speravano portasse loro denaro e notorietà. Tutti hanno sempre dipinto soltanto con questo spirito, per fame di denaro e fame di gloria, non perché volevano diventare pittori, ma soltanto perché volevano gloria o denaro, oppure nello stesso tempo gloria e denaro. Hai capito? Cioè, è un bel libro simpatico, verso simpatico, i pittori. Soprattutto, cioè, che volevo dedicarlo a te. Che no, infatti mi sento un po' preso in causa. Ci tieni tanto a definirti tale ed eccoti, no, qua. Io non mi definisco tanto un pittore, però insomma... Comunque. Non ti definisci un pittore? No, è un po' boh, mi sembra... Una definizione riduttiva. Un po' riduttiva. Un po' riduttiva. Cioè, voglio dire, fare pittura è... Però... non è riduttivo dipingersi un pittore, anche perché poi si chiamano i pittori anche quelli che ti vengono a rifare casa, per cui insomma è così. Però è sì, così. No, devo però, dire, vabbè, che comunque... no, io sono completamente in disaccordo su sta cosa, anzi, fra l'altro ci stavo pensando in questi giorni sul fatto che comunque questa volontà anticapitalista di fare le cose fa sì che appunto poi hai degli ostacoli anche in altri ambiti, no? Cioè, il certo. Fatto di non no, ma perché questo si riferisce ai pittori che vengono appunto celebrati ed esposti. Adesso non posso dare troppe indicazioni, sennò dopo devo dire il titolo del libro. Ah, ecco. E dunque chi indovina il libro vince il libro. Vince il libro. Ok, e lo molto potrà venire bene. A prendere qui in radio. Lo avete 7 minuti per scriverlo al 333 180 94 94 e poi avete invece 5 giorni e 40 minuti. No, 5 giorni e un po', e un quarto, per scriverlo a coxospaziale@gmail.com. dove potete naturalmente mandare i vostri MP3, perché comunque se siete dei creativi sonori potete mandarci. Vedete che noi diamo spazio, esatto. E tutte no, le volte che non che sappiamo noi diamo spazio. Esatto. Ma io oggi oggi funziona così, ho scambiato tutti i 5 sensi e anche il sesto funziona malino. Ma così noi li mandiamo quando non sappiamo cosa dire, esatto, il che succede ultimamente, succede anche abbastanza spesso, malgrado abbiamo avuto 2 settimane di ma tu cosa hai fatto quest'estate, scusa, aggiornami un attimo perché io non c'ero, come si sa. Sì, tu c'eri? Io c'ero, no, io ho fatto solo una puntata quest'estate quando tu non c'eri. Io ho fatto una puntata tutta su Jenny Owen Young, sì, e poi l'ho messa in repeat, no, l'ho messa in replica la settimana successiva. E poi 2 settimane non c'è stato nulla, c'è stato il nastrone di Radio Città Fuggito che è andato di diritto. Ed è il primo anno che succede questo? O è la forse prima il primo, questo forse è la prima estate che facciamo 2 settimane di pausa. Che abbiamo preso le vacanze anche noi. Esatto, è così. No, vabbè, ci siamo un po' imborghesiti. Ogni tanto, come l'ascoltatore attento avrà notato, mettiamo delle repliche. Però di solito metto anche questo jingle, che adesso ve lo faccio sentire, guarda. Che è questo qui, dunque, QQQPQRST, eccola qua, guarda. non questo, ma questo. Questa è una replica. Ecco, l'ascoltatore attento saprà che questa in realtà non è una replica, perché sono le 19.56 di oggi, cos'è? Lunedì 30 agosto. E la settimana prossima, esattamente a quest'ora, il suono che sentite alle vostre spalle avrà me all'interno, al suo interno. Ok. Esatto. Per e cui io vi saluterò e quella sarà la mia voce. Molto bene. E dunque significa che lunedì prossimo sono da solo e vi parlerò solo delle LA Axis. Anzi, adesso concludiamo questa fantastica puntata con il jingle di Jenny Owen Youngs che ci saluta per la fine della puntata. Scusa, no? Ma that's it? Che cosa sarebbe? Ah, that's it vuol dire che è finito. Ah, ok, non no. È una menzione. Ops. No? Sì. Eccola là. E naturalmente mi dimentico di mettere stop nel player e così dunque io ero Pergola Chiara sta settimana, abbiamo detto. Eri Pergola Chiara, io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale e noi ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo sempre su questi canali 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Ciao. Okay. Enrico, ciao. It's the end of the Jenny stream, and you know I hate to say goodbye. It's the end of the Jenny stream. If you'll excuse me, I have something in my eye. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che naturalmente sono sempre le LA Axis. Certo, e certo. Come poteva essere altrimenti. È il pezzo più romantico del disco, che comunque è tutto anni 50-60 con queste atmosfere fantastiche. Senti qua. Don't let it burn, don't let it fade. I'm sure it might be rude, but it's just too ready to. It's tearing me apart, it's ruining everything. And I swore I would be true, and honey, so did you. Why were you holding her hand? Is that the way we stand? Were you lying all the time? Was it just a game to you? But I'm in so deep, you know I'm such a fool. Coxo